America 24 di Mario Platero. Patience with the bearish view for the dollar has been rewarded with the upside failure at the start of the declining wedge pattern. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Il dollaro continua a indebolirsi, siamo andati vicinissimi a quota 1,36 sull'euro ieri, eravamo a 1,34,71 il giorno precedente. Anche lo yen si rafforza sul dollaro, gli interventi del governo giapponese, che ha speso addirittura 20 miliardi di dollari per cercare di indebolire la sua valuta, non hanno funzionato. I think China rightly sees the issue of currency as a sovereign issue. I think they are resistant to international pressure when it comes to them making decisions about their currency policy and monetary policy. But it is my belief that it is actually in China's interest. Il presidente Barack Obama tuttavia è soprattutto preoccupato da una valuta che non si rafforza, e cioè lo yuan cinese. Ha avuto un incontro bilaterale col primo ministro Wen Jiabao, gli ha detto che assolutamente Pechino dovrà fare il possibile per liberalizzare la sua valuta, per far sì che sia parte, diciamo così, di un sistema di libero mercato sul fronte dei cambi. La Cina ovviamente resiste. Vediamo un'altra notizia di ieri. Il numero di fallimenti delle banche in America ha raggiunto il livello record negli ultimi 20 anni. Dal 25 settembre del 2008 ad oggi ben 279 banche sono fallite. Le agenzie per la valutazione del credito hanno aumentato del 6% il numero di banche che, secondo gli analisti finanziari, restano in difficoltà. Il numero totale oggi è di 829 banche vulnerabili negli Stati Uniti. Un'altra notizia di ieri, il censimento che si è chiuso in America. Per la prima volta le persone nella fascia di età fra 25 e 34 anni che non sono mai state sposate superano la stessa fascia di età di quelli che invece sono stati sposati. Ecco, finora in America ci si sposava molto più giovani, ora per la prima volta non ci si sposa più. È un segnale, devo dire, questo molto molto significativo, e una delle spiegazioni riguarda proprio le difficoltà dell'economia. Perché abbiamo questo collage di tensioni valutarie da una parte, confronto dialettico fra Cina e Stati Uniti dall'altra, cambiamenti strutturali nel settore bancario, cambiamenti strutturali addirittura nel modo in cui gli americani si comportano nella loro sfera privata? Beh, perché in questi tempi di crisi ci sono i cosiddetti macro cambiamenti. Anatol Kaletsky, che è il capo economista di una società finanziaria basata a Hong Kong, ha pubblicato un libro, Capitalismo 4, la nascita della nuova economia dopo la crisi. La sua tesi è che il modello cinese di un capitalismo centralizzato, controllato dal governo e dunque anche senza democrazia e con scarsa libertà, sta vincendo. L'America si sta mettendo sulla strada sbagliata, anzi sbagliatissima, perché non solo sta rifiutando i tentativi di Barack Obama di introdurre più governo, diciamo, nella gestione dell'economia, ma addirittura col movimento dei Tea Parties dimostra di essere legata ai suoi vecchi ideali liberisti. Sono due ideologie che si scontrano. Abbiamo ai microfoni di America 24 Alberto Bisin, docente di economia a NYU. Alberto, buongiorno. Vorrei leggerti una frase chiave di quel che dice Kaletsky. È molto probabile che il nuovo modello economico dominante non sarà più il prodotto di un capitalismo che poggia su valori occidentali e con una leadership americana, ma che invece sarà un capitalismo autoritario guidato dallo Stato e ispirato da valori asiatici. Se l'America non ha capito che il modello è cambiato, perderà completamente la leadership. Sei d'accordo? No, non sono d'accordo assolutamente. La provocazione parte da un dubbio successo economico della Cina e, in un certo senso, ovviamente, dei seri problemi economici dell'Occidente, degli Stati Uniti in particolare. La Cina però ha un sistema economico estremamente semplice, in un certo senso, un sistema finanziario semplice. È un paese che è partito da grandissimi livelli di povertà e quindi alti livelli di produttività in un certo senso, e il fatto che questi interventi controllati dal governo, molto autoritari, autocratici, questa struttura autocratica funzioni bene è abbastanza una sorpresa in un certo senso, ma nello stesso tempo non c'è assolutamente alcuna garanzia che questo sistema economico possa procedere ancora per molti anni a questo livello. Però qui stiamo parlando anche di questione di valori, per esempio nella polemica interventismo mero, ecco, la Germania e alcuni stati europei hanno preso le distanze dall'America. Certo. Abbiamo visto che la Russia stessa dice esiste un modello capitalistico, ognuno ha il suo. Io ricordo quando Bush andava provocando Putin dicendo voi non avete un sistema legale, non avete dei controlli, non date garanzie, dovete maturare, e poi la Russia dice no, un attimo, questi sono affari nostri, perché voi cosa avete fatto? E c'era la crisi. Certo. Ecco, e da tutto questo che emerge un po', dice appunto Kaleschi, un modello Giappone che interviene sul mercato, che si allinea con la Cina in qualche modo, l'Europa che prende le distanze. Sta davvero cambiando qualcosa? C'è un dibattito in corso? La questione però dell'interventismo è un punto importante, ma in un certo senso è molto separato. Diciamo, la distanza fra la Germania e gli Stati Uniti rispetto agli Stati Uniti e la Cina è immensa. Una cosa è un interventismo del governo, diciamo di stampo più o meno keynesiano, su cui si può discutere e si discute. Un'altra cosa è un sistema, diciamo, economico, non capitalista, autocratico, senza democrazia. A me un pochino questi discorsi sulla Cina oggi ricordano quelli che si facevano sul Giappone negli anni Ottanta, in cui si diceva dobbiamo cambiare la struttura industriale, la struttura industriale giapponese, l'automazione ci distruggerà, e poi abbiamo visto che non è successo. Il fatto che il rapporto fra la democrazia e la crescita economica tipicamente nella storia è stato chiaramente a favore della democrazia, dei diritti di proprietà e di questo senso. Quindi il fatto che in Cina in questo momento stia avvenendo qualcosa di importante è fuori di dubbio, però il fatto che questo dimostri che il loro sistema è, diciamo, superiore, io trovo che sia in questo momento ancora assolutamente impossibile a dirsi, insomma, e sono convinto che non succederà, insomma, che non sia così. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Il futuro è dunque incerto. Il modello americano, l'egemonia americana viene messa in dubbio, ma l'America si aggrappa ai suoi valori. Sembra uno di quei film in cui gli americani così combattono sempre contro le dittature. E dunque il futuro non lo conosceremo. Credo che sia appropriato ascoltare in termini nostalgici una canzone, secondo me, meravigliosa, in cui l'America si rifugia ripensando ai suoi tempi felici. Che sarà, sarà, di Doris Day. Che sarà, sarà. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.